Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Electrolux, mai così grave la situazione, pesanti i tagli del gruppo svedese a Porcia, i sindacati chiedono un incontro urgente. Annullata la manifestazione per Wärtsilä del 3 febbraio a Trieste, il gruppo dichiara: siamo impegnati per la reindustrializzazione di Bagnoli. Notifica di arresto in carcere a Tolmezzo per il presunto capo di un gruppo mafioso catanese da parte della finanza siciliana. Condanne da 5 a 10 anni per 13 persone coinvolte nello spaccio di cocaina a Trieste, tra loro anche una donna italiana. Un simulatore Mietitrebbi e un laboratorio smart per cucinare al CEFAP di Codroipo nuove risorse per la formazione. Oggi è tardi, è il testo inedito per il teatro di Pino Roveredo. L'opera sarà in scena stasera al teatro Miela di Trieste, a un anno dalla morte dello scrittore. Sono le 12.32, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Dunque, il momento più difficile in Electrolux dal 2014, quando era stata minacciata la chiusura dello stabilimento di Porcia. I sindacati, dopo l'annuncio degli esuberi, chiedono un incontro urgente con regione e azienda. La crisi più difficile da quando 10 anni fa Electrolux minacciava di chiudere lo stabilimento di Porcia. Oggi, dove si producono lavatrici, gli esuberi saranno 73 tra gli impiegati, oltre ad ulteriori 13 che lavorano a Pordenone. Confermate tra gli operai le 95 eccedenze annunciate già lo scorso mese di settembre e che sono ancora coinvolte nel contratto di solidarietà che scadrà a giugno. In totale, in Italia, è stato dichiarato in esubero l'8% della forza occupazionale. Pietro Mancino, RSU Fiom CGL. È una situazione che sta via via peggiorando e alla quale non si trovano soluzioni di prospettiva, e quindi l'assemblea è stata particolarmente partecipata, sentita, e c'era molta preoccupazione, diciamo, tra i lavoratori. Alessandra Vivian, RSU Wilm. La produzione è bassa comunque per uno stabilimento come il nostro, che nel 2014 puntava almeno sulle 750.000 pezzi, quando per il prossimo anno ne vedono solo vicino ai 700.000. I rappresentanti sindacali hanno parlato agli operai in assemblea questa mattina, mentre nel pomeriggio è in programma l'incontro con i colletti bianchi. Mai come in questo caso, proprio tra gli impiegati, erano stati annunciati tanti esuberi. Elisabeth Fanella, RSU FIM CISL. Adesso spero, appunto, che se dobbiamo fare delle iniziative, spero che loro, anche loro, siano con noi, perché adesso vengono toccati anche loro nel vivo. Daniela Campolin, Wilm. Tutti adesso sono preoccupati, anche gli impiegati, che vorrei più partecipi alle assemblee e tenere conto che noi rappresentiamo tutti loro e che per noi ogni lavoratore, qualsiasi sia la sua qualifica, è importante. Il 5 febbraio ci sarà il prossimo incontro del coordinamento nazionale. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata annullata la manifestazione del prossimo 3 febbraio a Trieste a supporto dei lavoratori Wärtsilä. A comunicarlo le segreterie territoriali di FIM, FIOM, WILM, a seguito del raggiunto accordo in sede ministeriale sulla proroga del contratto di solidarietà per i prossimi 6 mesi. L'auspicio è che con gli accordi siglati si sia presa la strada giusta verso una prospettiva di reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. In questo senso, spiega la nota dei sindacati, sarà importante il prossimo incontro del 22 gennaio sull'accordo di programma che è stato deciso a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal quale sono attesi ulteriori segnali positivi. Ci siamo sempre impegnati nella reindustrializzazione della fabbrica di Bagnoli e la firma conferma questo impegno, che proseguirà nei prossimi mesi nella stesura dell'accordo di programma per la riconversione industriale e lo sviluppo. Ha scritto ieri in una nota il gruppo finlandese Wärtsilä, che assicura la sua presenza all'incontro del 22 gennaio per definire l'accordo di programma. Parliamo ora di richiedenti asilo e lavoro, un problema per il quale una soluzione auspicata ma ancora rara. Sentiamo perché in questo servizio. Un contratto di lavoro, una busta paga, il conto in banca e l'inizio di una nuova vita. Le storie di migranti di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, che attraverso la Croce Rossa di Pordenone hanno trovato un impiego e una prima indipendenza economica, sono esperienze ancora isolate in Friuli Venezia Giulia, e ci siamo chiesti come rendere più strutturale questo percorso nell'interesse delle persone di trovare dignità attraverso il lavoro e del territorio di rispondere alla carenza di lavoratori. Al direttore della direzione lavoro della regione, Nicola Manfren, abbiamo chiesto quali sono le criticità. Collegare meglio i soggetti che si occupano di loro, perché gli strumenti in larga parte già esistono e sono attivabili immediatamente, sono già attivi. Perché effettivamente le persone che già assistono i migranti possono essere un valore aggiunto nel capire chi può lavorare, vuole lavorare, vuole restare in questo territorio? Beh, sicuramente i soggetti gestori, cioè coloro che li hanno in carico e li vedono quotidianamente, hanno sviluppato un rapporto umano, come è normale che sia, tale che conoscono le loro aspirazioni, le loro inclinazioni e tutto, e quindi sono un elemento fondamentale di questa catena. La regione è pronta poi, effettivamente, ha già gli strumenti per poter dare una risposta? Assolutamente sì, sia con i centri per l'impiego per quanto riguarda l'orientamento e quindi spiegare che cos'è il lavoro in Italia, perché è un elemento importante, sia anche tutto l'apparato formativo, sia sotto profilo linguistico che professionalizzante. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca ha notificato anche a Tolmezzo un provvedimento di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione antimafia Oleandro della Guardia di Finanza di Catania, che ha eseguito sequestri e 15 ordinanze ad altrettanti indagati, oltre che nella città etnea e a Tolmezzo, anche a Caltanissetta, Arezzo e Napoli, su richiesta della DDA per associazione mafiosa, usura, traffico e spaccio di stupefacenti e riciclaggio di denaro. In Friuli il provvedimento è stato notificato a Giuseppe Russo, detto il giornalista o l'elegante, già in carcere a Tolmezzo. Gli indagati complessivamente sono 26. Secondo la finanza catanese, Russo avrebbe assunto la reggenza del gruppo di Picanello, storica branca della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, nell'omologo quartiere di Catania, con il compito di riorganizzare il gruppo mafioso falcidiato dopo una serie di arresti operati nel tempo. Le fiamme gialle hanno anche confiscato 9 attività commerciali con sede a Catania e operative nell'edilizia e 81 tra fabbricati e terreni a Catania e Arezzo, 5 autovetture e disponibilità finanziarie per un controvalore complessivo di oltre 12 milioni di euro. E sono state condannate a pene tra i 5 e i 10 anni di reclusione 13 persone coinvolte in un'organizzazione attiva nello spaccio di cocaina che è stato scoperto dalla polizia di Trieste e che era gestito da alcuni cittadini di origine tunisina, pluripregiudicati, che rifornivano decine di acquirenti. Lo smercio della cocaina avveniva in diverse zone della città, scelte anche per occultare le partite di droga nascondendole sottoterra in aree verdi. L'attività investigativa della squadra mobile ha permesso di raccogliere numerose prove e di individuare le fonti di approvvigionamento dello stupefacente. Una faceva capo a un tunisino domiciliato a Padova, l'altra era composta da alcuni cittadini albanesi residenti in provincia di Venezia. La polizia ha sequestrato circa 1,7 kg di cocaina, tra gli arrestati anche una donna italiana. E Trieste è la città d'Italia con il maggior consumo pro capite di cannabis ed è molto diffusa anche la cocaina, se ne consumano 3.000 dosi al giorno. In questo servizio le storie di alcune madri che convivono con la tossicodipendenza dei figli e cercano di aiutarsi a vicenda. Hashish, cocaina, eroina, ecstasy, crack, nelle piazze di spaccio di Trieste si può trovare di tutto. Noi come familiari poi siamo finiti perché questo cocktail di sostanze fanno scoppiare letteralmente le bombe in casa. Lei è arrivata al punto di denunciare? E certo, bisogna, l'ultima mia ancora di salvezza, l'ultima mia speranza era appunto che intervenisse la legge per bloccarla. Preferivo avere un figlio in carcere piuttosto di avere un figlio in giro. Sono centinaia i giovani nel buio della droga, hanno età diverse, famiglie benestanti o indigenti. Allora che cosa li accomuna? Lo abbiamo chiesto a chi c'è già passato, alle mamme con figli tossicodipendenti, le volontarie dell'ASFAT, un'associazione che supporta le famiglie e i tossicodipendenti di Trieste. Di solito c'è sempre un problema di base, sono molto sensibili, hanno comunque una sensibilità e poi ovvio le compagnie, un po' tutto, la voglia di sentirsi più grandi, la voglia di scappare da certe situazioni. Più di 150 famiglie si sono rivolte all'ASFAT, nata 6 anni fa, ma sono molte le persone che non chiedono aiuto. Perché? La gente prova tanta vergogna, ha paura di essere giudicata. Dicono i ragazzi: quando hai voglia di farti, chiamami, e così ricevono telefonate notte e giorno. Le volontarie dell'associazione collaborano con le maggiori comunità di recupero, tutte fuori regione. Mio figlio ha capito che non c'era più tempo e quindi ha incominciato a fare il percorso per entrare a San Patrignano. Adesso è tranquillo. Speriamo che vada avanti così. Gli incontri sono aperti a chiunque lo desideri. Si tengono il lunedì sera dalle 20 nei locali dell'oratorio della Chiesa della Madonna del Mare in via Sturzo 2. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, questa mattina un uomo che percorreva la statale 14 in bicicletta in località Crosere è stato urtato da un'auto. Immediato l'invio di un'ambulanza da parte della struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria SORES, poiché il servizio di elisoccorso era inaccessibile a causa della nebbia. L'uomo è stato dapprima sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, poi portato all'ospedale di Latisana in codice rosso. Adesso parliamo di scuola. Presentati al CEFAP di Codroipo, Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente, i nuovi lavoratori Agricoltura 4.0 e multifunzionale di trasformazione alimentare. La scuola friulana rappresenta un unicum in Italia. Troviamo Davide, 18enne di Andreis, alla guida del nuovo simulatore. Da grande vuole fare l'operatore montano e sta imparando a maneggiare un harvester, mezzo utilizzato nell'abbattimento di alberi e nella gestione forestale. Un simulatore su cui si può imparare anche a guidare un trattore, equipaggiato con seminatrici, irroratrici e spandiconcime intelligenti. Poco più in là, nel laboratorio di cucina, c'è Silvia, che da grande vuole fare la macellaia. Dietro di lei, il nuovo banco multifunzionale, spiccano uno stagionatore per salumi, un mini caseificio, un macchinario per le conserve sottovuoto per pastorizzare in sicurezza. Anche in regione è difficile il ricambio demografico in tutti questi settori e non solo. Mancano trattoristi, potatori, addetti alla zootecnia, esperti che sappiano applicare l'intelligenza artificiale all'agricoltura. Al CEFAP di Codroipo, Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente, si formano tutte queste figure professionali. Le nuove attrezzature utilizzate da Davide e Silvia sono state acquistate grazie a 385.000 euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo e veicolati dall'Assessorato al Lavoro e alla Formazione. Macchinari da Industria 4.0, sottolinea il presidente del CEFAP, Sergio Vello. Servono operatori professionali pronti a entrare in un settore che è molto diverso da quello di qualche anno fa e molto diverso da quello che vorrebbe il sentire comune, indica l'assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zagner, intervenuto all'Open Day organizzato dall'ente di formazione. Il CEFAP è una scuola di formazione privata partecipata da Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani e Coldiretti FVG, unico centro del genere in Italia, in collaborazione anche con ENAIP. Nel 2023 sono stati erogati 417 corsi frequentati da quasi 6.000 studenti, ragazzi dopo le medie o adulti. Nei corsi triennali di Codroipo ci si specializza in operatore agricolo o delle trasformazioni alimentari. A Tolmezzo si seguono corsi per operatore agricolo montano. Frequentano le lezioni dell'ente anche chi deve aprire per esempio un agriturismo, aspiranti giardinieri, chi lavorerà nelle stalle o ha bisogno di certificazione di sicurezza per operare nel settore. Codroipo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste sono stati presentati gli interventi per il miglioramento sismico e l'adeguamento antincendi della scuola primaria Nazario Sauro di via Tigor. Il primo intervento è già partito e si concluderà a metà febbraio. Il secondo, più impegnativo, proseguirà fino all'estate del 2025. Valgono complessivamente poco meno di 10 milioni di euro i cantieri avviati nel complesso scolastico Spaccini Sauro a Trieste, e ai lavori sulle strutture scolastiche si aggiungono alcuni scavi archeologici nell'area della Basilica Paleocristiana, che si stanno eseguendo con la supervisione della sovrintendenza. 1.400.000 euro è il contributo dell'EDR per la sostituzione di tutti i serramenti e parzialmente della copertura, mentre 8 milioni ammontano i fondi di PNRR da impiegare per l'adeguamento del plesso alle norme antisismiche e antincendio. Contemporaneamente sono in corso alcuni scavi archeologici nell'area sottostante la palestra, dove sono stati rinvenuti nuovi reperti della Basilica Paleocristiana. Oltre 300 i ragazzi temporaneamente trasferiti per consentire l'esecuzione dei lavori, con un'operazione che nei mesi scorsi ha suscitato diverse perplessità fra le famiglie. Se i lavori saranno completati entro luglio 2025, come imposto anche dalle regole dei fondi PNRR, il rientro nelle sedi potrà avvenire con l'inizio dell'anno scolastico 2025-2026. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà in calendario dal 27 al 29 settembre prossimi la 13ª edizione del Trieste Next Festival della ricerca scientifica, che proporrà 3 giorni di conferenze, seminari e laboratori, oltre 100 eventi e 300 relatori. Titolo di quest'anno: gli orizzonti dell'intelligenza, la conoscenza e le frontiere tra essere umano e tecnologie. 12:47, passiamo al meteo. Il cielo è coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11:00 a Trieste 8 gradi, a Gorizia 7, a Udine 6 gradi e mezzo, a Pordenone 6, in area montana a Tarvisio 6 gradi, Piancavallo 3 gradi e mezzo, Tolmezzo 4 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 2 gradi e mezzo, a Sappada 5 decimi di grado positivi, in quota sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 5 decimi di gradi positivi. Sulla costa Lignano 8 gradi e mezzo, a Grado 8 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nel pomeriggio cielo che rimarrà coperto a est, nuvoloso con qualche schiarita a ovest, e sulle Alpi foschie e possibili nebbie, specie la sera. Domattina neve sui monti e sul Carso, pioggia in pianura, bora forte sulla costa, specie a Trieste. Un'informazione di servizio: a Trieste i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico fino al miglioramento della situazione meteo, lo ha reso noto il comune. A Villa Revoltella sarà garantito l'accesso alla chiesa nel consueto orario di apertura. Resterà aperto anche il giardino di Villa Sartorio in via dei Modiano con il consueto orario di apertura. Raccolta rifiuti nel Friuli occidentale, inizia oggi la consegna degli ecocalendari a Cordenonse, Monte Reale, poi Prata di Pordenone e in tutti gli altri comuni in cui già si occupa della gestione dei rifiuti. Il termine delle consegne è previsto per fine mese. Si può fare comunque ancora riferimento al calendario dello scorso anno, che contiene anche il mese di gennaio. Quello attuale è scaricabile dal sito gea-pn.it. È finalizzato a raccogliere adesioni per un progetto di conservazione e pulizia del territorio di Udine Sud, l'incontro pubblico organizzato dall'organizzazione di volontariato Plastic Over, in cui verranno proiettati filmati del navigatore solitario Alex Bellini dedicati all'inquinamento e alla dispersione della plastica nell'ambiente. L'evento è in calendario a Cusignacco, presso la sala circoscrizionale di Via Veneto, alle 20:30. Al presidente dell'ente organizzatore, Luigi Rio, abbiamo chiesto una breve sintesi del progetto in presentazione. Abbiamo un progetto mirato a contenere la dispersione e purtroppo l'abbandono di rifiuti nel territorio di Udine Sud. E abbiamo più volte in questi anni provato a fare quelle conosciute campagne di pulizia di un giorno, che sono momenti di grande euforia e di grande partecipazione, che però purtroppo abbiamo rilevato si concludono con un grande piacere di averlo fatto, però dopo un mese si ripassano negli stessi luoghi e si ritrovano esattamente le stesse identiche situazioni. Quindi abbiamo pensato che bisogna cambiare metodo, questo qui non funziona. Allora proprio il nostro progetto è finalizzato a questo, cioè quello di formare un gruppo consistente di persone a cui assegnare, diciamo così, un time slot, un calendario all'interno del quale si muovono sul territorio monitorando e intervenendo. Saranno dotati di un mezzo a 3 ruote, e saranno dotati di cellulare e di GPS e ovviamente dell'attrezzatura per raccogliere questi rifiuti abbandonati. Verranno convogliati in una apposita area all'interno della parrocchia di Cusignacco e poi sarà la NET che si occuperà del recupero finale. In questo modo vogliamo dare continuità. Una notizia che riguarda gli amanti dello sci, chiusa oggi e domani a Sella Nevea, il Funifor che dal Gilberti sale a Sella Golovez a causa dei 15 centimetri di neve molto pesante bagnata caduti nelle ultime ore, quindi per il rischio di improvvisi distacchi. Chiusa anche la pista di fondo a Conca Prevale, interdetto lo sci d'alpinismo, restano aperti la telecabina per il Gilberti e la seggiovia. Fibromialgia, famiglia, lavoro, giovani, quale futuro? È il titolo del convegno che a Udine ha fatto il punto su una patologia che presenta condizioni di alterata percezione del dolore e di debolezza muscolare. Una patologia cronica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, disturbi del sonno, fatica cronica, alterazioni neurocognitive e altri sintomi come la cefalea o la sindrome del colon irritabile. E la fibromialgia può manifestarsi a qualunque età e colpisce prevalentemente le donne. I sintomi possono persistere anche tutta la vita, ci possono essere peggioramenti più o meno ricorrenti e questo spesso rende difficile la diagnosi. La fibromialgia può avere riflessi negativi sul ruolo sociale e le attitudini professionali del malato. A Udine, dove l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica è operativa da un anno, si è tenuto un convegno con operatori sanitari e pazienti su questa sindrome invalidante. Fabio Fischietti, responsabile struttura semplice di reumatologia della SUGGI. I centri di reumatologia che in questo momento operano nei vari ambienti ospedalieri, quindi parliamo di Udine in primis, e con la clinica di reumatologia, dopo abbiamo l'ospedale di Gorizia, l'ospedale di Pordenone e ci siamo noi a Trieste, quindi gli ambienti, diciamo così, specialistici di riferimento ospedaliero sono quelli che si misurano e quindi hanno competenza un po' nel diagnosticare o comunque vedere questo tipo di persone. Noi quotidianamente abbiamo appunto quelle che si dicono le prime visite che vengono inviate attraverso le prenotazioni CUP e direi che ogni mattina abbiamo almeno 2, 3, 4 persone che si presentano segnalando problematiche di dolore, dolore diffuso, dolore generalizzato. Eva Trinca, referente Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica di Trieste, sportello del Friuli Venezia Giulia. Sulla base dei dati regionali che ci sono stati forniti, siamo tra i 10.000 e i 20.000 pazienti, su circa 2 milioni a livello nazionale. Io vivo tante telefonate di persone fibromialgiche che hanno bisogno anche solo di una parola, non hanno grandi bisogni, hanno bisogno di confrontarsi con qualcuno che come loro soffre della stessa patologia e che quindi li comprende. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina degli spettacoli si intitola Oggi è tardi, il testo inedito scritto per il teatro di Pino Roveredo, in cui è narrato il monologo interiore di un uomo che si confronta con il tempo della propria vita. Il testo viene consegnato dall'autore al direttore artistico del teatro Miela di Trieste, Massimo Navone, con l'urgenza di un'imminente messa in scena. L'opera sarà rappresentata al Miela alle 20:30 e sarà recitata da Beatrice Visibelli e Alessandro Mizzi. Con Navone abbiamo parlato della diversità di questo testo rispetto a quelli scritti in precedenza da Roveredo. Beh, i testi scritti in precedenza sono dei testi letterari, quindi sono stati dei romanzi, racconti, di cui sono stati fatti degli adattamenti per il palcoscenico anche molto efficaci. Questo invece è un testo che Pino aveva scritto proprio pensando già alla dimensione del palcoscenico. E mi ricordo che con il suo proverbiale inglesismo mi aveva dato questo testo, mi ha detto: dai un'occhiata, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, perché l'ho scritto di getto e non so bene di cosa si tratti. Forse si tratta di un monologo, ma non ne sono sicuro. La frase con cui me l'ha consegnato e io l'ho letto poi la stessa sera di getto e sono rimasto veramente affascinato e colpito dalla profondità di questa scrittura, dalla capacità di scartare da piani simbolici a piani realistici, di essere così preciso nell'affondare la lama nelle pieghe dolorose, disperate e anche invece poetiche e meravigliose della vita. Qual è il messaggio che Roveredo voleva trasmettere con quest'opera? Io credo che la cosa più importante che gli stava più a cuore era proprio questo rapporto col tempo, e cioè il tempo è un flusso che corrisponde alla nostra vita, però è un flusso attuale e quindi fino che c'è va spremuto fino in fondo, va utilizzato fino in fondo, non bisogna mai pensare che oggi sia troppo tardi. Adesso lo sport, il biathlon, conferenza stampa ieri a Anterselva per Lisa Vittozzi, dove venerdì prenderà il via la sesta tappa di Coppa del Mondo. L'atleta sappadina è attualmente terza nella classifica generale. Sentiamola al microfono di Luca Di Bella di Rai Sport. Lo scorso weekend è stato molto buono. Sì, ho detto che non sono al 100%, che è la verità, però comunque mi sto difendendo bene e gara dopo gara sto crescendo di condizione, quindi questo fa ben sperare per questa tappa di casa. pensierino alla classifica generale, torni a farlo oppure non era mai svanito nella tua testa? Ma in realtà ci ho smesso un po' di pensare, perché essere troppo fissati anche non va bene, quindi si sa che la stagione del biathlon è lunga, ci sono tante gare, ci possono succedere tante cose e quindi penso che ci penserò dopo i mondiali. Da Anter Silva che risposte ti aspetti? Ma sono sicura che posso fare delle belle gare, certo quello dipende sempre dal poligono, quindi sarà da divertirsi e spero di godermi il pubblico di casa e la gioia di essere qui. In regia Bruno Montevecchi e Viola Romanese, in redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.